Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, sono le 8 e 20 minuti e ci siamo. E ci siamo. Seduto eccoci in quel qua. Caffè, io non pensavo a te. 29 settembre, mitica, Gogol, Battizio, ecco. Oggi 29 settembre. Perdonate, ma per me viene quello come ricordo automatico. Invece no, perché sono tante le cose da ricordare in questo 29 settembre. Non è un caso che un giorno fiammeggiante gli arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele si festeggiano il calendario liturgico. E poi pensa a quanti nati importanti in questo giorno. Tantissimi. Nelson, Cervantes, Enrico Fermi, Michelangelo Antonioni, Lech Wałęsa, naturalmente nessuno di quelli, però l'Italia oggi ricorda soprattutto uno Silvio e l'altro Pierluigi e Pierluigi Bersani. I nemici separati alla nascita. Esatto. Tra l'altro, caro Oscar, noi abbiamo uno scoop. Abbiamo per loro degli auguri particolarissimi, insomma, che siamo riusciti a carpire e vogliamo quindi ascoltare. Caro Silvio, caro Pierluigi, eccoci qua. Sono vostro Matteo e volevo farvi gli auguri per questo speciale genetliaco. Caro Silvio, in particolare per te, sono 80, ma so che sei ancora in forma. E ho sentito che vuoi fare un nuovo predellino. Ma è naturale, fai bene. Io ti aspetto e rimettiti in forma. Che appena ti sei ripreso, organizziamo una bella cena con il nostro amico Dennis Verdini. E anche te, Pierluigi, auguri sinceri. Come sai, potevi essere tu al mio posto qui a Palazzo Chigi. E ci sono io, che diamine, sempre del PD, però siamo. E come direbbero i nostri amici 5 Stelle, uno vale uno. E allora, Pierluigi, non te la prendere. E quindi, caro Silvio, caro Pierluigi, vi faccio tanti, tanti auguri sinceri. Ma state sereni e mi raccomando, io oggi vi faccio questo regalo e voi 4 dicembre fatene uno a me. Ricordate, basta un sì. Ciao, ciao Ciccio. Ciao Ciccio. No, dobbiamo svelare ovviamente il nostro mitico Andro Mercù che ci ha fatto questo regalo. Vabbè, però idealmente, insomma, non è poi così eccessivo questo, ma no, questo ma unire, no, da parte di Matteo Renzi. Il pontiere sullo stretto, no? Il pontiere non solo sullo stretto, su ciò che sembrava impossibile il suo partito, verso l'alto, verso il basso, verso la destra. E infatti ha detto Renzi che pur essendo un'idea di Silvio Berlusconi la questione del ponte, non per questo è una cattiva idea. Probabilmente ieri ha capito, secondo me, che l'impatto sull'opinione pubblica è stato, come era inevitabile, tant'è che poi ha cercato di arronzare nel corso della giornata e ha detto: ma no, ma come, io non ho mai detto niente di diverso, prima bisogna fare i trasporti in Sicilia, poi quelli in Calabria, poi ma quando mai, io ho detto sempre la stessa cosa. Secondo me un po' deve aver capito che questa cosa gli è uscita un po' oltre. In realtà ieri ha ribadito, insomma, che si può fare questo ponte. Noi oggi lo faremo in qualche modo il ponte? idealmente visto che avremo ospiti il sindaco di Messina e il sindaco di Reggio Calabria, quindi vedremo se loro, che sono i primi, immagino, interessati, oltre a molti italiani, ad avere il ponte, se avranno intenzione di unirsi. O se non c'è il bis delle Olimpiadi che si volevano fare a Roma senza che il sindaco e la giunta le volesse. Sì, a proposito di Roma, Oscar, non so se hai visto che c'è un'altra defezione, dice Repubblica, anche il ragioniere generale di Roma, del comune di Roma, abbandona dicendo che qua pare che la città sia anche sull'orlo del default e quindi un'altra grana, ecco, da gestire. E devo dire che a Roma proprio giorno dopo giorno... Che, insomma, non tanto i pezzi che non arrivano, ma si perdono anche i pezzi che c'erano. Esatto. E comunque... Io non credo che sia eccessivo la descrizione di Repubblica che dice che nelle 20 cartelle che avrebbe lasciato come relazione il ragioniere generale Stefano Fermante, in effetti la descrizione è quella di un default, perché sappiamo tutti, analizzando i conti sia del bilancio col deficit strutturale che continua a girarci dentro per mezzo miliardo, sia il peso delle partecipate, che in effetti bisogna prendere decisioni molto molto impegnative. Questo sì. Comunque, se volete chiamarci 800 24 00 24, sicuramente torneremo sul tema del ponte, visto che avremo due ospiti importanti, il sindaco di Messina e di Reggio Calabria, anche con il vostro parere. Hai visto questo accordo sulle pensioni? Ci vuoi dire qualcosa? Perché anche se è un'intesa scusa, adesso ti ricordi tu Renzi quando ci ha detto per 2 anni modello Marchione, basta concertazione, mai più incontri alla Sala Verde a Palazzo Chigi? Era questa la cosa, gli schiaffoni ai sindacati e anche alla Confindustria, dicendo il governo va avanti per la sua strada, non confeziona più pacchetti predigeriti prima delle leggi finanziarie, eccetera. Beh, è finita quella cosa, come si è visto, perché immediatamente prima addirittura di rendere noto i contenuti del DEF, che è uscito fuori solo stanotte perché prima c'era solo una tabellina, in realtà l'unico pezzo di provvedimenti finanziari, guarda caso poiché c'è il referendum, il governo li ha stabiliti con un protocollo molto dettagliato in 7 punti con i sindacati. Allora la domanda diventa, perché sai, i 7 punti non ci abbiamo il tempo e modo di approfondirli, insomma, sì. Diciamo che comunque si dà una spallata ai limiti di età della legge Fornero, che è più o meno definitiva, chiunque può andare in pensione se lo vuole 3 anni e 7 mesi prima dei 66 anni e passa, quindi si può andare in pensione a 63 anni. Bisogna vedere quanto viene penalizzato l'assegno, questo nel dettaglio non lo sappiamo, per chi lo fa volontariamente, per tanti però, categorie sociali disagiate eccetera, sarà tale quale l'assegno, quindi più deficit per lo Stato, per tanti sarà tale quale prima e pagherà l'azienda per la ristrutturazione aziendale, quindi di fatto è davvero quella spallata che i sindacati, la Lega, pezzi del PD come Damiano, i 5 Stelle da sempre riservano alla legge Fornero. E poi ci sono tante altre cose, si alza la 14ª, anche questo in deficit, si aggiunge 1 milione di italiani a chi aveva l'integrazione fino a 750 euro che diventa 1000 euro. Però al di là di tutti questi dettagli mi interessa sottolineare che ascolto un punto. In un paese in cui, perdonatemi, io ho grandissimo rispetto per gli anziani che hanno le pensioni basse, quindi capisco integrare la 14ª, quello che non capisco è mettere soldi pubblici per mandare in pensione prima chi un lavoro ce l'ha, in un paese in cui la vera emergenza sono i giovani che il lavoro non ce l'hanno, se ce l'hanno discontinuo. Ecco, questo non lo capisco. Io ricordo solo che Banca Italia ci dice che, fatto pari a 100 il livello di ricchezza di 15 anni fa, 15 anni dopo, quello degli over 65 è salito di 60 punti, quello degli under 35 è sceso. Ma questo è il grande dibattito, Oscar, quando si dice, si parla poi delle pensioni, i soldi messi sulle pensioni e invece... Ma per prepensionare! Non si capisce che cosa si faccia per i giovani, poi dopo partono le accuse di dire siete contro i pensionati. No, non è questione di essere contro i pensionati, guarda. Ripeto, lì è... La sperequazione di cui abbiamo i numeri è che, per quanto male vada, va molto meglio in termini di ricchezza a loro che a chi ha sotto i 35 anni. I figli non si fanno per questo, e il problema è che però la politica si ricorda che l'età media italiana è 45 anni e che gli anziani vanno a votare più dei giovani. Comunque, questo è il punto. Esatto, voti 15. Comunque ricordiamo l'impegno, perché quello siglato ieri è un impegno, è un protocollo, poi su alcuni punti anche sull'app social, su altri elementi non ci sono ancora tutti gli accordi, anche con i sindacati, nonostante questo accordo. L'impegno è quello di stanziare 6 miliardi. Come hai ragione tu, contano, perché 6 miliardi 2 miliardi l'anno non bastano per fare tutta quella roba lì. Questo... E l'idea è questa, poi vedremo appunto come va implementata, perché ci sono alcuni punti da chiarire. Con la 14ª, questo è l'impegno, che sarà estesa a 1.200.000 in più rispetto ai 2.100.000 che la prendono oggi. Allora, ci chiamano Beppe d'Ascoli Piceno, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Eccoci. Senta, qua. Per quanto riguarda, diciamo, un po' il ponte di Messina, e diciamo per un argomento quasi vicino per quanto riguarda, diciamo, la spesa pubblica, le Olimpiadi. Dunque, il ponte di Messina, io come italiano dico che il progresso non si può fermare, prima o dopo il ponte di Messina verrà fatto. I cinesi, i giapponesi fanno dei ponti 4 volte più lunghi, quindi sicuramente verrà fatto. Però dico che in questo momento economico-finanziario non siamo in condizioni di fare né il ponte di Messina in questo momento, né quando Berlusconi 8-9 anni fa, prima della crisi, aveva diciamo progettato di farlo, avevamo una situazione economica sì. diversa. E non si è fatto neanche lì, peraltro. Beh. E non cioè, sono 40 anni che lei dice prima o poi si farà. Guardi, si deve fare perché non può essere che il progresso viene arrestato, la Sicilia sarà collegata prima o dopo. Io dico che come le Olimpiadi, no? Perché le Olimpiadi si faranno sempre, ma in questo momento economico-finanziario noi abbiamo un debito pubblico di 2.250 miliardi, abbiamo Roma che ha oltre 13 miliardi di debito. Come facciamo a fare tante cose che poi il nostro Presidente del Consiglio, quello che vorrà fare, non essendoci crescita, dovrà fare tutto sì. a debito, perché poi pagheranno sempre gli italiani. Vabbè, no? Insomma, Beppe, però lei dice che da una parte si farà sicuramente, d'altra parte siamo in un momento, da un po' di anni, economicamente, in cui è un po' complicato spendere soldi. Si fermi sulle Olimpiadi però, perché sennò non diamo spazio anche agli altri ascoltatori, però è stato sintetico e preciso sul tema ponte. Sentiamo Gianni. Ci chiama da Bari. Buongiorno. Sì. Niente, io mi ricordo che l'appalto per il ponte fu bandito e fu vinto anche da un'impresa durante il periodo Berlusconi. Sì. Se ricordo bene, ricordo anche che nel contratto che fu firmato c'era una penale, una maxi penale di 2 o 3 miliardi di euro in caso il ponte non fosse stato realizzato. Infatti per cui cosa succede? Rischiamo di pagarla, c'è un contenzioso. Esatto, cui cosa succede? Che ogni volta che l'impresa dice bene, non state facendo il ponte, mi dovete dare 3 miliardi di euro, improvvisamente il premier di turno, che è di destra, di sinistra, dice no, lo vogliamo fare, domani mattina lo facciamo. Ma per me lo fanno solo per non pagare la penale. Lei dice, guardi che sui giornali questa tesi qualcuno l'ha anche avanzata, caro Gianni. Quindi allora non sono pellegrino nelle mie pellegrino. Magari tra le righe nell'articolo. Però di solito qualcuno... per un caso, per uno di quei casi fortuiti che solo le male lingue possono naturalmente correlare alle intenzionalità dei politici. Per caso, di solito, però, questo argomento, come dice lei, riciccia. Sempre se sia prossimo un turno elettorale, ma è un caso, si figuri, i premier non ci fanno mai caso al fatto che magari in quelle regioni appetiti molto importanti, che poi possono tradursi in voti, magari in drine, cosche e così via, possono per così dire sentire a quel punto la salivazione che cresce all'idea che il ponte riparte. Comunque, caro Oscar, noi tra poco ripartiamo con appunto con questo tema, con il sindaco di Messina, il sindaco di Reggio Calabria, però devo fare anche una confessione, caro Oscar, perché anch'io effettivamente mi sento di dover fare gli auguri. Adesso lo sapevo. Ma no, Milan, a una lo persona sapevo. Che ha fatto sognare, oggi è una persona importante. Loretta sono Goggi. Persone importanti, no. Una persona che ha fatto gioire, piangere milioni di italiani. Grazie, Andriy Shevchenko. Scema 40 anni oggi. Io lo so, io lo capisco che quando uno c'ha informazione Montolivo è chiaro che Shevchenko è il fulmine di Zeus, no, dall'altro del Monte Ida. Tu hai citato tanti personaggi, tra l'altro citano anche il Caravaggio oggi, aggiungono tra gli illustri, ma Shevchenko, tra tutti quelli che hai ma citato, Andriy Shevchenko. Lo capisco. Chi era Michelangelo Antonioni di fronte a Shevchenko? Lui era Michelangelo del pallone. Lo so. Dai, andiamo. Dai, vuoi mettere Montolivo su? Sono... Non mi provocare. Andiamo alla pubblicità. Va. Ecco. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Oggi leggevo che nel governo è ripartita la discussione se mettere o no 8,5 miliardi di euro per il ponte di Messina. Ma li mettono nelle nostre scuole, gli 8 miliardi che devono mettere? Li mettono per un'edilizia scolastica che non è degna di un paese civile? Li mettono sulle cose concrete anziché sui grandi progetti faraonici? Era Renzi nel 2012 quando fece le primarie, le prime, quelle che poi perse. Ah, non era un imitatore nostro? No. Questo era quello vero? Però, Oscar, io devo dire che la coerenza dei politici in Italia non è mai esistita. Cioè, le dichiarazioni fatte da chiunque, prima e dopo. Il che naturalmente però dovrebbe essere un incentivo a iniziare, certo, un giorno o l'altro. Però secondo alcuni politici rotondi, per esempio, dice una teorizza il fatto che quello che il politico dice vale per il momento stesso in cui lo dice, sì, rivendicando il fatto che dopo 10 secondi può mutate le condizioni, dire un'altra cosa. Però, ecco, io credo che questa sia la perfetta descrizione. Cioè, Rotondi incarna i politici che hanno distrutto l'Italia. Noi stiamo in queste condizioni per questo. E ancora alcuni di loro ritengono che queste siano le qualità di un politico. No, no, no, invece non è qualità, così. Non ho detto qualità. No, Rotondi dice che... Per Rotondi sì, ecco, per Rotondi. Invece per me no, però magari sbaglio io. No, questa era Renzi nel 2012, evidentemente in 4 anni e al governo ha cambiato la prospettiva, cambia su questo ponte. Allora, ci chiama Luigi D'Ancona. Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno a tutti, complimenti. Eccoci. No, io sono stato qualche anno fa in Sicilia. Per la prima volta l'ho voluta percorrere con la macchina e io mi sono reso conto subito, io mi sono detto, ma chi ci vuole il ponte? Innanzitutto la distanza è veramente, non è abissale, e più, cioè veramente, cioè fai la fila e prendi il traghetto, cioè io mi sono detto, ma prima o poi lo dovranno fare, ma no, non lo dico io poi da turista, lo dovrebbero dire chiaramente chi abita là in quelle zone. Ora io capisco che gli interessi della zona saranno tanti, però per me le istituzioni devono avere coraggio e quando una cosa si deve fare, la devono fare. Mo è inutile trovare il discorso di i soldi si trovano, non si trovano, perché i soldi se si vuole si trovano. Tutto qui. Va questo bene Luigi, è il suo parere, dato in Sicilia ci vuole il ponte. Allora Oscar, qui abbiamo il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e lo ringraziamo di essere con noi. Buongiorno, ben ritrovati. Lei lo vorrebbe questo ponte? Visto che, vabbè, fino a Reggio Calabria si può arrivare, ecco. Quindi... Sì, diciamo che dal 22 dicembre poi dovrebbe finire anche la 3. Ponte così, come opera faraonica, ma diciamo decontestualizzata da un sistema integrato di trasporti, naturalmente non ha nessuna utilità. Più che ponte sì, ponte no, io direi ponte con, cioè ponte con le autostrade, le strade, i porti, gli aeroporti, insomma. Il ponte è inserito all'interno di un sistema di mobilità che francamente ancora non c'è, è programmato, ma è chiaro che non esiste. Quindi insomma, il ponte come opera fine a se stessa le sembrerebbe un po' un qualcosa di... No, il ponte di... come opera soltanto diciamo architettonica, no, beh, francamente architettonica, priva di sé. Il ponte che collega la Sicilia e la Calabria con il resto del paese, ma le collega anche con le strade, con le autostrade, il ponte in un contesto in cui gli aeroporti funzionano e i porti come quello di Gioia Tauro vengono rilanciati, allora è una cosa che insomma mi piace di più. Sì, qua c'è il rischio però Oscar di mettere, se dice non ci sono i soldi per il ponte e invece si chiedono ancora più soldi, ancora più infrastrutture, ancora più interventi, che per carità è legittimo che si chiedano da parte di un amministratore per i quali questi sono stati chiesti da tempo e che poi non sono stati tirati fuori, perché poi la disattenzione verso il sud, ripeto, è fatta di questa cosa qua, è fatta di dire alla regione del sud, ma cosa volete voi? Cioè, avete la programmazione sessennale dei fondi europei, non venite a chiedere a me, e così via. Alla fine, tra lentezze locali e visibilmente di attenzioni nazionali, quello che ci sta dicendo il sindaco in realtà sono tutte esigenze sacrosante. In realtà poi sono le esigenze che spingono gente come me di fronte al bilancio pubblico ristretto a dire: facciamo prima quelle cose lì della rete che manca e poi eventualmente pensiamo al grande impegno per il ponte. Ecco, questo è la posizione. Sindaco, tra l'altro lei è del Partito Democratico, ovviamente come il Presidente del Consiglio. Che effetto le fa? Ha sentito, insomma, nel 2012 Renzi aveva un'altra opinione sul ponte, ma come dire... Sulla storia del ponte si sono stati scritti libri, posizioni che cambiano, posizioni che mutano. Lei, come da esponente del Partito Democratico, come la vive questa situazione? No, ma la posizione del Presidente nel 2012 in qualche modo condannava l'idea di realizzare un ponte, ma senza alcuna visione intorno. Il Presidente in quell'intervista parla di scuole, parla di altre... Sì, per la verità dice dateli lì e non metteteli non nel ponte. Dateli lì, sì. Poi non credo che sia quella la spesa, nel senso che mi pare di capire che c'è un project financing, mi pare di capire che c'è una società ancora attiva che potrebbe chiedere anche dei danni. Non è l'idea di cambiare pelle o non è il fatto di essere incoerente rispetto a prima. Il fatto è che forse oggi, ripeto, integrato con altro tipo di interventi che sono primari, altrimenti è come se mettiamo la jacuzzi in una casa dove non c'è neanche il lavandino per lavarsi, integrato in un sistema di altri interventi, forse è il momento anche di iniziare a pensarci. Sentiamo Marco che ci chiama da Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno Alessandro. Io chiamavo per fare una discussione sul piano ecologico, no? Perché le polemiche, le obiezioni ecologiche a questo giro non le ho ancora sentite sull'impatto che può avere il ponte. Premessa, io mi reputo un ambientalista, però conosco Messina molto bene perché è la città di mia moglie e posso dire che non capisco come il ponte possa impattare negativamente su una situazione ecologica, urbanistica, paesaggistica disastrata. E considererei il ponte un'occasione per spianare tutto e ripartire costruendo. Guardi Marco le risponde perché l'abbiamo raggiunto ed è arrivato con noi, oltre al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Messina che abbiamo raggiunto è Renato Accorinti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Era un ascoltatore questo, era Marco da Milano, la cui moglie è di Messina, e dice lei che tra l'altro è stato eletto con un programma, proprio con una lista civica, era proprio No Ponte, credo, no, il nome della assolutamente lista. Assolutamente era una delle cose liste fondamentali, perché una battaglia ormai portata avanti per oltre 12 anni con convinzione, divisezionando il ponte sotto ogni punto di vista, da quello anche ambientale, ma trasportistico, economico, di tutto e di più. E quindi che risponde a Marco, che dice non avrebbe alcun impatto ambientale, non si capisce perché a Messina non lo vuole? Allora, se parliamo solo di questo aspetto, perché gli aspetti importanti e tutti, bisogna vederli tutti, da quello, ripeto, economico, trasportistico, geologico, quello ambientale. Bene, il ponte è collocato in uno dei posti più straordinari, non solo di bellezza, ma anche è una zona protetta, perché tra l'altro c'è il passaggio anche di tutti gli uccelli migratori dell'Africa, è uno dei tre canali. Il ponte è una barriera, questo non sono invenzioni personali, chiaramente dopo tutti gli studi a livello internazionale, tanto è vero che queste sono delle prescrizioni così importanti che sono stati dei divieti messi per l'Europa sull'approvazione del ponte. Poi è una barriera anche, voglio dire, pericolosa dal punto di vista anche per i venti, perché l'oscillazione potrebbe essere pericolosa. Infatti si pensa che si chiude il ponte per moltissimi giorni l'anno anche per il vento, perché è una zona ventosa. Sì. Vabbè, facciamolo, però abbiamo i più grandi architetti al mondo, saremo in grado di fare un ponte in grado di resistere ai venti, sindaco, no? Se lo vogliamo fare. Sulla fattibilità ci sono seri dubbi, poi è sul punto della faglia più pericolosa del Mediterraneo. Ecco, si sono pronunciati tutti i geologi, a cominciare da Mario Tozzi e tutti gli altri. E il ponte è poi anche un'opera inutile dal punto di vista proprio economico. Ci hanno imbrogliato per 150 anni che sarebbero venuti a pagarlo gli americani, i giapponesi, gli indiani, i cinesi, gli arabi. Non hanno messo un dollaro sul tavolo, perché i project financing, se non sono veramente seri, nessuno viene a investire. Tanto è vero che non è venuto nessuno a investire, perché è un ponte troppo costoso e poco remunerativo, sì, in quanto il numero dei passaggi. Noi colleghiamo la Sicilia, che sono 5 milioni di abitanti, con una, voglio dire, economia ridotta. Non c'è un traffico veicolare che può garantire sindaco, sull'aspetto economico qui c'è Oscar Giannino, adesso le dice, io dico solo una cosa, ingegneri che sappiano fare i ponti credo li abbiamo, gli uccellini dell'Africa voglio loro bene immensamente a tutti, però non fare un'opera perché gli uccellini dall'Africa non passano mi sembra un po' così, poco guardare al futuro, al progresso eccetera. Guardi, non mettiamola così, perché buttiamo solo sugli uccellini, una belva, non un uccello, una belva. La Sicilia e la Calabria hanno bisogno, non si possono chiudere gli occhi. Fare un'opera di 3 chilometri e lasciare il deserto trasportistico è una follia, nessuno fa un palazzo a 100 piani pensando solo all'attico quando non hai le fondamenta. Queste, sindaco, sono obiezioni. Non hanno le fondamenta, certo. per dei trasporti. Sindaco, che sono la queste, della queste sono obiezioni terra. Giuste e legittime. E riflettevo solo sugli uccellini dell'Africa, insomma, visto che c'erano tanti puti Oscar. Io credo che in realtà gli argomenti di chi obietta, quando sono fondati su decenni di distrazione totale su come funzionano i trasporti. Cosa vuol dire come funzionano i trasporti per decenni? Queste sono le precondizioni della crescita. L'infrastrutturazione devastata del sud è una delle ragioni concorrenti poi per il deserto, per fare impresa e per la crescita economica e per l'occupazione. Se ci metti 3 ore e 45 a binario unico tra Palermo e Catania delle ferrovie, e ancora questa è la situazione, capisci che poi dire la grande opera... No, ma non gli dà fastidio. Effettivamente non ha molto senso, nel senso che la priorità per me è quella di recuperare i gap sulle reti ordinarie che non esistono, sull'infrastrutturazione che si è fermata, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, poi sugli investimenti tecnologici di linea e così via. Cioè tutto questo, quindi il supporto di una rete che sia mediamente avanzata e l'effetto che fa sull'economia regionale delle due regioni, diciamo così, tutto questo poi può sviluppare nel tempo più traffico, maggiori ritorni che servono per ammortare i costi dell'opera, per invogliare, come dice giustamente il sindaco, anche i privati a metterci soldi. I privati ci mettono soldi nelle grandi opere, sì, certo, ma devono avere prospettive di ritorno economico del capitale in tempi certi e con tariffe ragionevoli. Tutto quello che a quest'opera manca, proprio perché queste precondizioni mancano. Figurati se io posso essere contro le grandi opere, io sono favorevole, ma però le grandi opere devono vivere, non posso essere favorevole a prescindere, come dice la politica a volte. Bisogna che siano in linea con gli sviluppi economici su cui calcoli i volumi di traffico e sui ritorni. Su questo, secondo me, il sindaco a Corinti, spesso descritto come una specie di figura bizzarra con i sandali, no? Come se fosse lì a dire solo gli uccellini, però in realtà fa delle obiezioni rispetto alle quali la politica balbetta, parla d'altro. Ma le obiezioni strutturali, quello di dire c'è un sistema per esempio ferroviario molto arretrato in Sicilia, per cui uno fa 3 km di ponte, corre, e poi dopo se deve prendere un treno ci mette appunto 3 ore e mezza a attraversare la Sicilia. Queste sono obiezioni assolutamente legittime. Vorrei andare per un attimo, cioè, voglio dire, siccome non c'è solo il ponte non serve solo per il traffico veicolare su gomma, no? In teoria serve anche per l'alta velocità. Allora, l'alta velocità si ferma per dopo. Il momento a Salerno, esatto. Allora, portiamola lì, apprestiamo un livello diverso di infrastruttura ferroviaria in Sicilia, e a quel punto il ponte riesaminiamo se ha senso. Se metti il ponte come prima cosa mentre l'alta velocità si ferma a centinaia di chilometri prima, non ha molto senso. Che poi sindaco Falcomatà invece Reggio Calabria è un po' il tema che lei sottolineava all'inizio, ma ne parlate col sindaco a Corinti di questo ponte, voi che state a pochi chilometri? No, ne parliamo spesso e andiamo molto d'accordo su tutto quello che va realizzato sotto il profilo culturale, turistico, di continuità territoriale tra le due sponde dello stretto. Reggio e Messina sono due città metropolitane. Anche su questi argomenti la discussione deve andare in qualche modo anche oltre la politica. Cioè sono argomenti di un'importanza così grande, va coinvolta la cittadinanza, vanno coinvolte, mi permetta, le università. Certo. Le nostre due città sono città universitarie, e allora sviluppiamo in questo senso una discussione che ci possa mettere di fronte a tutte quelle che sono le possibilità in positivo e in negativo che deriverebbero da, ripeto, non il ponte, da un sistema di mobilità all'avanguardia che oggi naturalmente nelle nostre città non c'è, ma forse dobbiamo iniziare a pensare. Sentiamo, siccome c'è un ascoltatore da Messina, Ettore, così poi il sindaco può rispondere. Ettore, buongiorno. Buongiorno a tutti, saluti a tutti. Sì. Allora io desideravo intervenire su un punto. Se noi consideriamo il ponte sullo stretto solo ed esclusivamente come infrastruttura utile all'attraversamento delle persone, una mobilità dello stretto, è un'opera perfettamente inutile. Ma il ponte sullo stretto non ha questa finalità, ma si inserisce all'interno del corridoio Berlino-Palermo. Sento spesso parlare... Prego. Ci deve essere però questo corridoio, come diceva prima Oscar Giannino, no? Se l'alta velocità si ferma a Salerno, cioè facciamolo prima arrivare tutto il corridoio a Reggio e poi in Sicilia sistemiamo tutto. Una volta che è sistemato tutto, uniamo e tutto funziona perfettamente. Però Ettore, siccome c'è poco tempo, sindaco a Corinti vuole rispondere su questa storia del corridoio, il ponte che sarebbe... No. Perché sorride, sindaco? No, guardate, veramente, io non stavo sorridendo, sono molto seccato perché prendere in giro le persone così è un'offesa veramente che tutti... Io cerco di difendere il mio territorio e la dignità dei miei cittadini, ma è talmente palese che se ti manca tutto e tu pensi a questa cosa che è 3 chilometri di... Ma veramente lo capisce un bambino. Manca tutto, è un deserto ferroviario, la peggiore ferrovia europea, come lo dobbiamo dire? Muoiono le persone, tutto a binario unico, il 30% va a gasolio. E ancora parliamo di 3 chilometri solamente, che c'è un investimento, un lavoro enorme. E, ma per fare che cosa? Alla fine 3 chilometri, quando ci manca tutto? Abbiamo, guardate, quando l'anno scorso avete parlato tutta Italia dell'acquedotto, è perché la messa in sicurezza non c'è. Un terreno, una collina è andato sull'acquedotto e l'ha spezzato. Una collina è arrivata vicino da Ormina ed è sulla Messina-Catania autostrada ed è interrotta a 2 corsie per Catania, interrotta da 1 anno e nessuno ci mette mani. Cioè, è morto a Giampilieri 37 persone e allora abbiamo tanto di quelle cose da fare. Abbiamo bisogno dei trasporti in un modo serio, ferrovie, porti, porti commerciali. A me convince il sindaco, sembrano tante buone ragioni. Sindaco, no, sindaci, ci dobbiamo fermare però. Renato Accorinti, sindaco di Messina. Adesso un'ultima cosa, io voglio mandare un abbraccio a nome tanti a Ilaria Capua, in questo paese che sceglie la tenebra, prende a calci gli scienziati, li accusa di essere sterminatori, diffusori addirittura di virus e giustamente loro se ne vanno in America e lasciano il Parlamento. Peccato, brava Ilaria, questo paese sceglie la tenebra. Ci sentiamo domani, grazie.